È arrivato Milanalino. Legge, commenta, spoglia, combattute piccanti. È arrivato Alino Milan, l'arrotino della comunicazione. 24 mattino. Eccoci qui alle 7:20 minuti, anzi ormai 21 minuti, cari ascoltatori, cari amici di 24 mattino, nello spazio dedicato alla lettura dei giornali. Questa è la rassegna stampa e allora andiamo che è venerdì. Mamma mia, per fortuna che è San Venerdì. Per la precisione, venerdì 10 marzo, con i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore. Draghi, meno rischi nella Unione Europea, non servono nuovi stimoli, salgono l'euro e i rendimenti dei bond europei. Questa è l'apertura. Poi, per quel che riguarda l'Italia, se veniamo agli altri quotidiani, beh, il crollo del cavalcavia alla 14 è l'apertura per il Corriere della Sera. La strada andava chiusa, la protesta dei sopravvissuti. Per Repubblica, ponte crollato, il traffico andava chiuso. Il Giorno, l'Italia ci crolla addosso. Certo, ci sono queste metafore anche sul giornale. L'Italia sotto un ponte, tragedia in autostrada. Giù un altro ponte in Italia, casca tutto, anche Libero. Libero, per la verità, ha un titolo diverso sulla politica. Salvini fa il terrone. Il fatto che Salvini andrà domani a Napoli. Sulla politica apre anche La Stampa, che ha un'intervista a Renzi. Renzi all'attacco, più riformismo contro i populisti. Il Fatto Quotidiano, ecco tutti i politici dell'agenda Romeo, da Bonifazi a Lotti, da Boschi ai Pittella. Mentre l'apertura della Verità, il grande imbroglio delle banche, torna l'incubo bail-in per i clienti di due istituti veneti. JP Morgan ricomincia a volteggiare su Montepaschi. L'apertura di Avvenire invece, reddito d'inclusione, poveri non più soli, è stata approvata la legge delega. Vedremo altre aperture, ma voglio partire proprio dalla cronaca, il crollo del ponte sulla 14. Purtroppo non è la prima volta, fa sapere Repubblica, negli ultimi 7 anni ci sono stati 6 crolli di cavalcavia. In questo caso ci sono 2 morti, 2 coniugi, che viaggiavano sulla A14 quando il ponte è venuto giù. Ed è venuto giù come fosse di burro. Questo è il titolo di pagina 2 del Corriere della Sera. Crolla il sostegno nel cantiere per la terza corsia, un'auto schiacciata, e c'è la rabbia dei superstiti che dicono: come si fa a fare i lavori mentre le macchine passano sotto? Come è possibile? In realtà, se si legge tutto, vabbè, il solito rimpallo di responsabilità, questo è un gran classico, ma se si legge a pagina 2 di Repubblica, Fabio Tonacci, gli indiziati, trave, martinetti o un errore dei manovali, tutto per 34 centimetri, anche se era stata definita un'operazione di routine. In queste ore, nella sede centrale di Autostrade per l'Italia, i tecnici vanno dicendo questo, scrive Repubblica. Sopraelevare di 34 centimetri un cavalcavia lungo 50 metri sospeso sulla 14 era, doveva essere, un intervento modesto, una routine appunto, e come tale senza la necessità di chiudere il tratto autostradale per motivi di sicurezza. Sarà ora l'indagine per omicidio colposo plurimo del PM di Ancona Irene Bilotta a dover stabilire perché alle 13:50 di ieri il ponte 167 all'altezza di Camerano, a cui lavoravano gli operai della Delabec, si è precipitato sulle vite di Emidio Diomedi e Antonella Viviani. E se è vero che il rischio per gli automobilisti era praticamente zero, come sostiene la concessionaria Autostrade per l'Italia, qui spetta la decisione di tenere a meno aperta la 14. È un fatto però che sullo stesso tratto, Ancona Sud, Porto Sant'Elpidio, era già stata sopraelevati di recente 10 ponti per avere i franchi, come si dice in gergo, per avere cioè tra la carreggiata e il cavalcavia i 5 metri e 20 centimetri indicati dai regolamenti. Complessivamente il lotto vale 6,1 milioni di euro, è stato affidato alla Pavimental, società controllata da Atlantia della famiglia Benetton. Questa poi ha subappaltato 3 viadotti alla ditta romana Delabec. Il primo è stato realizzato senza problemi, il secondo è crollato ieri a cantiere aperto. Così su Repubblica Fabio Tonacci, staremo a vedere. Per la PM, le prime dichiarazioni, fa sapere Fabrizio Caccia sul Corriere, è stato un errore umano. Questa è la prima reazione, ma ovviamente si indagherà. Voglio saltare invece sulla cronaca, su un'altra sentenza. Anche questa fa discutere, come tutte le sentenze che in qualche modo superano o sovrastano un Parlamento che non decide su queste cose. Poi la realtà va avanti, la realtà pone di fronte situazioni che in Parlamento non si riesce a normare e allora intervengono i giudici. È un gran classico in Italia. Gay, riconosciute le adozioni all'estero. Il Tribunale di Firenze ha detto sì a due uomini gay, italiani, che hanno adottato un figlio negli Stati Uniti, dove è possibile, e il Tribunale dei Minori ha stabilito che le condizioni sono valide anche nel nostro paese e dunque anche in Italia questi genitori hanno visto riconosciuta l'adozione di questo figlio. Quindi di fatto l'adozione a due gay, che è vietata per legge in Italia, fatta all'estero, riconosciuta in Italia per sentenza. Argomentazione analoga che vale peraltro anche per due padri italoamericani in un'altra sentenza, non solo quella di Firenze, ma anche in un altro caso. Quindi sono due i casi, racconta il Corriere della Sera, di due uomini, due gay, di due coppie che hanno ottenuto l'adozione in Italia. Parla Nichi Vendola, spesso si va a sentire Nichi Vendola, che ha fatto un figlio con la maternità surrogata negli Stati Uniti col compagno canadese. Ancora una volta è toccato ai giudici aprire una finestra sulla vita, la chiama così Nichi Vendola, intervistato da Stefano Costantini su Repubblica. Mi sarebbe piaciuto tanto adottare, ma ora che c'è Tobia, cioè il figlio, come faccio a pensarlo? Per me non ha molto valore il legame biologico. A Firenze i giudici hanno recepito ciò che è stato accertato dagli uffici giuridici inglesi, che dopo attenta verifica hanno stabilito che si trattava di una famiglia. I due padri sono esattamente alla pari. E potrebbe decidere allora di adottare un figlio adesso? Mi scusi, la devo lasciare. Lo sente Tobia? Sta piangendo e reclama suo padre. Finisce così l'intervista a Nichi Vendola su Repubblica. Ovviamente la protesta del mondo cattolico e la protesta anche su Avvenire in prima pagina. Il titolo è: il tribunale forza e apre alle adozioni gay a Firenze. Questo succede e di questo, come al solito, si discute. Oh, si discute anche di prostituzione. Farà discutere molto l'intervista che il sindaco di Firenze, Dario Nardella, rilascia al Corriere della Sera ad Alessandra Aracchi. Siamo a pagina 23. Nardella ha deciso di contrastare in tutti i modi la prostituzione, che ricordiamolo non è reato, è reato lo sfruttamento della prostituzione. E infatti Nardella, sindaco, lo dice, lo so bene che non è reato, ma in programma, grazie all'articolo 8,2 lettera B del decreto, di un decreto che è in arrivo, cioè il decreto sicurezza del ministro Minniti, di contrastare al più presto la prostituzione. Farò un'ordinanza dove verrà esplicitato che alle Cascine, che è la zona di Firenze più battuta dalle prostitute e dai clienti, è vietato sostare per offrire prestazioni sessuali. Quindi divieto di sosta per prestazioni sessuali. Non solo, voglio mettere all'ingresso delle Cascine le porte telematiche. E per fare cosa? Per scoraggiare l'ingresso delle auto che vanno di notte a prostitute. Ma come? Beh, e qui c'è il punto chiave, quello che fa più discutere. Le porte telematiche delimitano un'area riservata. Chi le oltrepassa viene fotografato e raggiunto da una multa a casa. Quindi ci sta dicendo, sindaco, che arrivano fotografie a casa che documentano che una certa macchina era lì a quell'ora? Già. E quindi chi era lì dovrà spiegare in famiglia perché era lì, per esempio a una moglie? Già. ho in mente anche un'altra cosa da verificare. Ancora, sì, il decreto Minniti allarga il concetto di DASPO e quindi devo capire se si può fare il DASPO, cioè il provvedimento per allontanare i violenti dagli ostadi nei confronti delle prostitute. Avete capito? Il sindaco di Firenze vuole fotografarvi mentre andate a Mignotte e mandare la multa a casa. Così vostra moglie, magari vostro marito, perché magari ci sono anche le donne che vanno a prostituti, un po' più rari, credo, però... Dovrà giustificare che ci facevi a letto o che te tu ci facevi alle acide alle due di notte, brutto mischero. Pem, pem. Vecchia maniera. È così. Vabbè, questo, guardate, c'è solo il titolo, è su tutti i giornali, è l'articolo che mi fa più della giornata. È una storia veramente brutta, una storia di violenza nei confronti di una bambina ripetuta, prima in Perù, poi quando è venuta in Italia dal patrigno, abusata per anni, per questo, per disperazione, si è tolta la vita. A Torino è arrivata la condanna per gli abusi, intanto però questa ragazza a 17 anni si è tolta la vita, è arrivata 17 anni dopo questa condanna. 17 anni dopo gli abusi. Nel frattempo la ragazza si è tolta la vita e nel frattempo la persona che è stata condannata per questi abusi se n'è tornata tranquillamente in Perù, da dove credo non tornerà per scontare questa condanna. Condannato 17 anni dopo gli abusi, ma l'orco di Catherine non va in cella. La ragazza si uccise dopo le violenze, il patrigno intanto è scappato in Perù. E Simona Lorenzetti e Nicolò Zancan raccontano sulla stampa, ma c'è un po' su vari giornali. Eccolo qui anche. Torino, tribunale Lumaca, stupratore condannato, ma dopo 17 anni e intanto la vittima si è suicidata. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il rosicone dell'informazione. Ah, e non solo dell'informazione. Ah, va bene, è un po', sì. Sarà uno juventino questo tifoso. Auguri ovviamente per la partita di questa sera, ne farete dai 3 ai 4 in su. Io non la vedrò neanche. Allora, cari amici, l'economia, vogliamo parlare un po' di economia, intanto perché Valentina Conte su Repubblica racconta lo studio che c'è al governo per cambiare la vicenda dei voucher. Voucher solo per i giovani, disoccupati e pensionati con un tetto di 3.000 euro. Questo è il titolo, è ovviamente un accordo in Parlamento. Secondo Valentina Conte, cosa si prevede come modifiche? Voucher solo per famiglie e imprese individuali con zero dipendenti e in quest'ultimo caso vincolati a remunerare solo disoccupati, pensionati, under 25, disabili, stranieri extraeuropei, senza occupazione. Esclusi dall'uso dei ticket tutte le altre aziende, le pubbliche amministrazioni, se non per lavori di emergenza solidarietà, i sindacati, i partiti, ammessi invece in agricoltura per le attività stagionali di raccolta, ma unicamente per studenti under 25 e pensionati. E poi inseriti tre tetti, due individuali, incassi non superiori ai 5.000 euro annui e mai sopra i 2.000 euro dal singolo datore e un limite unico per imprese e famiglie, 3.000 euro all'anno invece dei 7.000 attuali. In sintesi è questo il testo di legge elaborato dalla relatrice Patrizia Maestri del Partito Democratico che adottato dal Comitato Ristretto della Commissione Lavoro alla Camera è il testo base, ovviamente aperto a modifiche, su cui si può discutere per come modificare i voucher. Per Susanna Camusso vanno aboliti, è la soluzione drastica per cui ha raccolto firme per il referendum, mentre questo è il tentativo di fare appunto un disegno di legge per impedire il referendum. Tra l'altro si discute sempre a proposito di economia invece della povertà, no? La legge delega con le famiglie che saranno destinatarie di questo reddito di inclusione, REI in acronimo, un'integrazione al reddito delle famiglie più povere. L'accusa è: chi vede il bicchiere mezzo vuoto non c'è per tutti, solo 400.000 famiglie verranno beneficiate. Chi vede il mezzo pieno invece dice è una svolta storica. In qualche modo, per esempio, il presidente delle ACLI, Roberto Rossini, intervistato da Avvenire, dice: è una svolta. Sicuramente si può utilizzare anche il termine di svolta storica, ma con tutti i se e tutti i ma di una legge quadro che deve essere ancora dotata delle gambe per camminare. Dice così, intervistato da Paolo Viana su Avvenire a pagina 5. Così Don Luigi Ciotti, che viene intervistato da Roberto Ciccarelli sul Manifesto a pagina 3, e dice Don Ciotti: il reddito di inclusione, che prevede fino a 480 euro al mese per famiglie numerose e copre 3 poveri assoluti su 10, è certamente un passo avanti. Evitiamo il trionfalismo come il disfattismo di chi pensa sempre che si possa fare di meglio. Occuparsi di povertà e emarginazione è un dovere della politica. La crisi ha messo in ginocchio milioni di persone. Certo, poi Don Ciotti, fondatore di Libera, fa notare che mentre con una mano si alimenta questo fondo, dall'altro il fondo politiche sociali sarà tagliato di oltre 200 milioni e il fondo delle non autosufficienze di 50 milioni. Questo è un esempio di cattiva politica, risponde Don Ciotti. Una politica che con una mano dà e con l'altra toglie. La riduzione dei servizi e delle politiche sociali è un dato drammatico di questi ultimi anni. A proposito di economia, parla invece con La Stampa il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia. Intervistato da Marco Zatterin, dà la sua ricetta: giù il cuneo fiscale, ma solo per i giovani. L'emergenza non è finita, occorre uno shock. Dice Boccia: visto che le risorse non sono rilevanti, è giusto che gli interventi siano ben mirati su nodi di sviluppo del paese in attesa che torni una crescita più forte, e dunque la riduzione del cuneo andrebbe concentrata sui giovani, con un'operazione shock rilevante davvero per la crescita e l'inclusione. E alla domanda: ma in Confindustria potrebbero non essere tutti d'accordo? Risponde Boccia: dobbiamo metterci in discussione. In una logica di visione complessiva del paese, di lotta alle disuguaglianze, occorre chiedere che i mezzi disponibili siano orientati sui giovani, su una certa fascia di età e per un certo periodo, dicendo che chi li assume a tempo indeterminato può avere un cuneo pari a zero per 2 anni. Alla fine del periodo, con la situazione migliorata, potremmo meglio affrontare il discorso del cuneo per tutti. E poi parlare di progetti concreti, questa è ancora la ricetta di Boccia. Per questo chiedo un taglio al cuneo mirato per alcuni e non per tutti. Probabilmente sarò criticato dai miei associati, ma devo rappresentare un'idea di futuro e non lo status quo. Mi prendo la responsabilità di farlo. Così il presidente di Confindustria, intervistato dalla Stampa. Sulla Stampa, per la verità, c'è anche un'intervista a Matteo Renzi. Oggi parlerà al Lingotto a Torino, Federico Geremicca lo raggiunge ed è un Renzi d'assalto. Basta autocritiche, contro di me è un intreccio di poteri. La mia forza e la mia debolezza, dice Renzi, sono state lo star fuori da ambienti della Roma politico-burocratica. Vogliono farmela pagare. Presidente, anche lei cerca complotti e complottardi? Ma no, per niente, ma mi viene da ridere quando parlano di sistema di potere mio. Siamo 4-5 toscani, quarantenni o giù di lì. Questo sarebbe il mio sistema di potere? Non male come accusa. Io non devo difendermi da nulla. Vuole che le rifaccia l'elenco? Eni, Enel, Ferrovie, Poste, Rai, Finmeccanica. Al vertice non c'è nessun fiorentino. I vertici li ha nominati un governo da me presieduto. Le bugie hanno le gambe corte. Anche sull'inchiesta dice: assolutamente state tranquilli, sul ruolo di quello di mio padre non ho dubbi. E poi dice: non tirate per la giacchetta Prodi, aspettiamo a dire con chi sta. Racconta anche della sfida per le primarie, questo Matteo Renzi intervistato da Federico Geremicca a pagina 4 e 5 della Stampa. Tra l'altro tutti fanno notare, non male come scelta, magari creerà anche qualche polemica, oggi al Lingotto parlerà Renzi, tra gli invitati c'è anche il figlio di Giorgio Nunes. E Giorgio Nunes era un assessore a Napoli che, quando ci fu la prima inchiesta su Romeo, poco dopo si suicidò. Ed ecco allora che Renzi porta a parlare il figlio di Giorgio Nunes sul palco lui che è al padre, ora indagato proprio dallo stesso PM Woodcock. Questa scelta è sottolineata dai giornali. Caro Mauro Meazza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Alessandro. Hai dubbi sulla rottamazione delle cartelle? Hai cartelle esattoriali da rottamare? No, come ieri. Se non sono comparse ieri notte, no. Ah, perché no, se tu ne avessi, per carità, io non, naturalmente non te le auguro, però può capitare, ecco, sappi che lunedì con il Sole 24 Ore vedrai le risposte dei nostri esperti, ma fino alle 14 di oggi puoi inviare delle domande ai nostri esperti. Ottimo. Controlla bene nei cassetti, perché non si sa mai che uno poi trova all'ultimo momento qualche cartelluccia da sanare. Segui sempre naturalmente in modo religioso, ossia religiosamente, le pagine di Norme e Tributi anche oggi. Ti parlano proprio di questa rottamazione. Sai che ha fatto un decisivo passo avanti lo statuto per il lavoro autonomo, sì. Già te lo segnalavo ieri. Allora, molto importante quanto scriviamo oggi nelle prime pagine, le tutele per i pagamenti dei lavoratori autonomi, cioè tempi certi per incassare, insomma, e anche per il lavoro agile o smart working, lavoro furbo. Sì. Dicevamo ieri, appunto, discutevamo se il tuo può essere definito un lavoro furbo. Tu lo definiresti tale? Vediamo. Forse, ripeto, l'alzata antelucana gioca un po' a sfavore di questa definizione. Ecco, io credo. Esatto. Va bene. Imprese e territori. Stai leggendo scrupolosamente Imprese e territori? Eccolo qua. Perché c'è un primo sì al progetto per deviare le grandi navi da Venezia, tutto da leggere, Jacopo Giliberto ti racconta il piano per evitare il passaggio, diciamo, proprio interno in Venezia da parte delle grandi navi da crociera. E poi naturalmente so che la cosa ti interessa, avendo tu grandi patrimoni all'estero, la tassa a forfè, sì, ma sappi che riguarda i 100.000 euro, insomma la tassa dei paperoni, chiamala come vuoi, sappi però che riguarda solo i neoresidenti, quindi tu dovresti trasferirti fuori e poi rientrare, non so se questo per 9 anni peraltro. Per 9 anni, sì, poi trasmettere dall'estero magari, perché no? Perché no? Alle Maldive, no? Potrei scegliere una località, se posso scegliere la località, insomma ne avrei 2 o 3 in prima fila, Costa Rica, Maldive. Ah, ecco, che dove sono poi i tuoi depositi, mi immagino, questa sarà un po' l'indicazione. Va bene, io sinceramente non so davvero se farti gli auguri per questa sera, non lo so, sono proprio molto incerto, lascio così, vedrò la partita, forse sì, forse no, ma forse anche no perché sarò al lavoro. Io no, sarò alla finale del Festival di San Nolo, mitico. Ah, bene, buon divertimento. Grazie. Allora. E soprattutto mi divertirò lì sicuramente, non vedendo la partita. Bene, allora buona domenica a tutti gli ascoltatori. Grazie, auguri anche ai nerazzurri domenica, eh. Ah, questo è molto fine da parte tua, molto sottile. Ti ringrazio, ma soprattutto caro Alessandro. Auguri alla migliore squadra nerazzurra, quella che ho nel cuore. Cioè. Ma certamente. Alessandro Milan, la polenta e rosei dell'informazione. Buona anche a quest'ora per chi si è svegliato alle 5. In tutto questo per la politica c'è Salvini che domani è a Napoli, no? Napoli è casa mia, ci prova. Non sono molto d'accordo i centri sociali, il sindaco De Magistris, Libero che ci ha abituato a titoli un po' così, un po' forti ultimamente. Com'è che titola oggi? Salvini, dove cavolo è Libero? Salvini fa il terrone, com'è che ha titolato? Boh, una cosa simile, ma si può sapere dove si infilano i giornali che si nascondono? Eccolo qua, Salvini fa il terrone, questo è il titolo, dal sole delle Alpi a un sole mio. Va bene, invece un po' sotto traccia, però i giornali adesso cominciano a scrivere della questione delle banche, per la verità. C'è un giornale, in questo caso appunto La Verità, che non sottotraccia il titolo principale, ma insomma ci sono delle banche che rischiano. E com'è che non è l'apertura di tutti i quotidiani? Ci sono molte persone che hanno i soldi in banca, in queste banche. Il grande imbroglio delle banche è l'apertura della Verità. Claudio Antonelli racconta, pagina 2, Veneto Banca, i popolari di Vicenza non smettono di essere protagonisti e togliere il sonno a tanti italiani. Il 22 marzo scade la proposta fatta ai soci per chiudere i contenziosi legali in cambio di un rimborso. I due istituti hanno messo sul piatto circa 660 milioni a fronte di perdite mastodontiche. Il titolo popolare di Vicenza lo scorso anno valeva 60 euro, quello di Veneto Banca 40. Oggi entrambe quotano 10 centesimi. Se le adesioni non riuscissero a superare l'80%, al momento siamo al 34%, il rischio di bail-in selvaggio è quasi certo, ripeto, 22 marzo, col risultato che chi aveva creduto nelle due banche venete finirà per pagare una tassa ancor più salata. Non saranno bastonati solo gli azionisti, ma anche i risparmiatori che avevano investito in obbligazioni e perfino i correntisti con più di 100.000 euro. Il bail-in prevede questo, una beffa amara che andrebbe a sommarsi a quella di Atlante. E succederà? Non succederà? Parliamone, discutiamone, giornali, discutetene, perché ci sono persone davvero che rischiano di rimanere sul lastrico, altre lo hanno già fatto peraltro. Oh, torna anche la vicenda 5 Stelle con l'inchiesta Marra, Romeo, l'altro Romeo, vale a dire Salvatore Romeo. Tutti i giornali raccontano che nell'inchiesta sono state depositate delle chat, i dialoghi delle chat, dalle quali sembra che le persone brigassero i Romeo, i Marra, ancor prima che Virginia Raggi si candidasse e fosse diciamo eletta in Campidoglio. Perché? Perché la loro conoscenza è più datata. E allora ci sono questi messaggi, per esempio, tra Marra e Romeo: ricordati, se giri le notizie, tieni coperto il mio nome, prudenza, prudenza, fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. E già prima del ballottaggio sfoderavano i nomi dei possibili ruoli apicali degli uffici. Dia Madame, scrive Romeo, così chiamavano la Raggi, dia Madame che sto lavorando alla macrostruttura. Cioè, secondo queste chat, dai dialoghi con Romeo emerge un ruolo strategico, per esempio di Marra, il ruolo strategico per cercare di fissare gli assessori, i ruoli apicali, ancora prima che diventasse sindaco. Va bene, andiamo in Germania. Questo raccontano le cronache. In Germania c'è stato un raid con l'ascia, il terrore ovviamente a Düsseldorf. Il terrore a Düsseldorf, dove ci sono 7 feriti, l'aggressore è stato fermato. La modalità non è nuova, per la verità. E cioè, alle 20:15 di ieri, stazione centrale nel nord della Vestfalia, un uomo attacca alcuni passeggeri sfoderando un'ascia e colpendo all'impazzata. Secondo le prime testimonianze c'erano anche dei complici. Era successo il 18 luglio di un afghano che aveva ferito 3 viaggiatori al grido di Allah Akbar. In questo caso non si sa assolutamente se il gesto sia legato a un terrorista islamico, non c'è molto di più al momento, se non si lanciava sulla gente, c'è sangue dappertutto, questo testimoniavano, ma bisogna capire di che matrice sia questo tipo di attacco. Va bene, una notizia di cronaca, Rosa e Olindo, ve lo ricordate? C'è la strage di Erba, 11 anni dopo tentano una carta disperata, è stato accolto il ricorso su un'analisi dei reperti e allora la Cassazione si pronuncerà sulla possibilità di una riapertura del processo. Lo facciamo vedere a Elisabetta Fusconi, perché Elisabetta Fusconi si interessa a tutto quello che succede a Rosa e Olindo. Mentre si sa che una rondine non fa primavera, ma Libero dedica una pagina intera alle rondini amiche, dalle sacre immagini ai rapporti con l'uomo. Ecco perché i nidi delle rondini sono opere architettoniche. Infatti uno se lo chiede tutto il giorno, voi ve lo chiedete nelle vostre lattine di lamiera andando in ufficio, sono sicuro, vi fate questa domanda: perché i nidi delle rondini sono opere architettoniche? Ma chi se ne frega!